mandato per adesso è quello che viene dallo Small Business Act, dare attuazione allo Small Business Act in ciascun paese, c'è tanto da lavorare, è un processo, si comincia adesso, anzi si è cominciato già l'anno scorso, si proseguirà. Obiettivamente il nostro paese è stato su questo molto attento, è stato il primo a recepire lo Small Business Act in generale, è stato il primo a dare... Questo l'ho capito, io volevo capire la sua forza di intervento. Lei non teme di finire come Mr. Prezzi? Mr. Prezzi svolge una funzione importante di segnalazioni anche delle difficoltà del mercato, di segnalazioni dei problemi, non necessariamente occorre un potere autoritativo per poter ottenere dei risultati, molto spesso un potere di segnalazione. Ma lei avrà un potere di segnalazione o un potere coercitivo? No, potere coercitivo no, il potere coercitivo... Si dice che il potere, se non è coercitivo, non è potere proprio, no? Questo fino a un certo punto, perché già segnalare un tema alla pubblica opinione oppure raccogliere e coordinare le esigenze del sistema delle piccole e medie imprese perché si trovi un punto di raccordo, questo dà tanta forza. Quindi al massimo le avrà un potere di moral suasion, cioè Draghi? Certamente un potere di moral suasion a sostegno delle esigenze delle piccole imprese, ma anche un potere di segnalazione, nell'attuazione dello Small Business Act in Italia e delle varie iniziative che il governo italiano e il Parlamento prenderanno e che impatteranno sulle piccole imprese. Grazie. In bocca al lupo a questo punto. Io le auguro di non finire con Mr. Prezzi, dai, no? Guardi, il Mr. Prezzi ha funzionato, funziona con le caratteristiche che ha, ma è una funzione di segnalazione interessante e importante. In assenza, se non ci fosse, se ne sentirebbe l'assenza. Vabbè, però lei non vuole finire come Mr. Prezzi. Scusi? Lei non vuole finire come Mr. Prezzi. Non ho detto questo, ho detto che sono due funzioni diverse. Ho capito, dico, lei avrà più potere di Mr. Prezzi, Tripoli. Scusi, il potere non deriva dagli atti, dalla possibilità di fare atti normativi, ma dalla possibilità di proporre, di suggerire, di ipotizzare, di coordinare, di raccordare. Questo è il potere Quindi sì o no, tanto mi conosce, sa che poi non molla, mi dica sì o no. Più potere di Mr. Prezzi ce l'avrà, sì o no? Complessivamente dato la definizione di potere. Si vedrà la prova.